בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. Buonasera a tutti, buonasera dalle frequenze di Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolaore, che anche questa sera è particolarissima, sono anche molto emozionato, come potete sentire. Ripercorreremo un concept album straordinario, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima volevo salutare il mio fedele compagno, come di consueto, da molte trasmissioni a questa parte. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ed è Maurizio Calzavalle che anche questa sera ovviamente sarà insieme al sottoscritto per, ripeto, rendere omaggio a questo capolavoro, questa opera immensa di Fabrizio De André, cioè La Buona Novella. E a far da contorno a questa musica ci sarà anche una band che abbiamo fortemente voluto, perché loro lo portano proprio in giro come, diciamo, loro attività musicale extra al di fuori di quella che è la loro musica, e cioè Gli Specchi di un'Avventura con, posso dire, il frontman Dario Petucco. Ci sei, Dario? Ci sono e buonasera a tutti quanti. Ciao, ben ritornato qui a Blu Radio Veneto. Poi ancora abbiamo Roberto Boscardin. Buonasera. Che è il chitarrista, giusto? Sì, esatto. E poi abbiamo l'altro chitarrista, cioè Manuel Mocellin. Buonasera, ciao. Anche per Manuel è un gradito ritorno, invece per Roberto è la prima volta che ci viene a trovare qui nei nostri studi. Allora, questo disco, La Buona Novella, prima però vi voglio sottolineare il fatto che se volete interagire questa sera, in questa serata così straordinaria, in questa settimana santa di Pasqua, potete tranquillamente farlo scrivendo il nostro numero di SMS, cioè 346 23 20 033, oppure chiamandoci qui in studio allo 049 875 6423, oppure ancora potete scrivere nella mia pagina di Facebook, cioè semplicemente Agostino Spolaore, oppure ancora anche nella nostra pagina di Blu Radio Veneto, una e l'altra invece Blu Radio Veneto Rock Wave. Tutta questa storia di questa sera è stata, ci siamo avvalati dell'aiuto anche del nostro coordinatore della radio, cioè Mirko Cavallin, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità, anche Maurizio, nell'aiutarci. Certamente, grande aiuto ci ha dato, sicuramente. Ecco, allora, questo disco, come dicevo, La Buona Novella, è un LP, è un concept album, è tratto dalla lettura di alcuni Vangeli apocrifi, in particolare, come dicono dalle note di copertina, dal protovangelo di Giacomo e dal Vangelo arabo dell'infanzia. Questo disco è stato pubblicato nel 1970, ma lui, De André, ha cominciato a scriverlo qualche mese prima, cioè nel 1969. Circa un anno prima, all'inizio del 69. Io direi di partire subito, Maurizio. Certamente. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Questo è proprio l'inizio di questa opera, Laudate Dominum. Sì, esattamente. 30 secondi che dà proprio lo sguardo alla vicenda. Trago le note da un libro di Guido Micheloni, Fabrizio De André, La storia dietro ogni canzone, e lui scrive, l'autore del libro. Come ha detto Faber, cioè chiaramente Fabrizio De André, è una overture questa qua, è congeniale al tipo di concept album, perché questo era un concept album, forse uno dei più grandi concept album della musica italiana, forse il più grande, cosa dici Dario? Secondo me è il più grande. Sì, senza ombra di dubbio, anche perché è andato a toccare dei temi molto importanti. Assolutamente. Assolutamente importanti. E quindi un'ouverture che dà proprio l'aspetto, apre la vicenda. E a tal proposito, Fabrizio De André come spiega il perché di un album di questa portata? Lo spiega semplicemente così. Ho scritto queste canzoni in pieno 68 e resto convinto che abbiano una forte carica rivoluzionaria. Con La Buona Novella ho voluto dire ai miei coetanei di allora, guardate che le nostre stesse lotte sono state sostenute da un grande rivoluzionario, il più grande della storia. Molti ritennero il disco anacronistico perché parlavo di Gesù Cristo nel pieno della rivolta studentesca, ma non è così. Eppure ciò che gli studenti volevano e non erano così lontano dal capire, dagli insegnamenti di Cristo, abolizione delle classi sociali e dell'autoritarismo e creazione di un sistema egualitario. Ugualitario, cioè un sistema uguale per tutto. Cristo era il più grande, è stato il più grande rivoluzionario della storia. Ed André ha preso spunto dal più grande rivoluzionario della storia. Sì, diciamo che questo disco poi tra l'altro è stato fatto, come dice Fabrizio, dice eravamo in piena rivolta studentesca in quegli anni, quindi anche per me è stato un po' difficile, i miei amici, i miei compagni, i miei coetanei hanno pensato che fosse quasi un disco, lui dice anacronistico. Sì, un'allegoria era. Un'allegoria, insomma. Assolutamente un'allegoria. Sì, venivano dalla morte di Martin Luther King, dalla morte di Robert Kennedy, da Jan Palach che si è bruciato, quindi voglio dire... Era una situazione un po' particolare, scrivere per lui questo disco fu difficile, però ci riuscì ed ebbe un successo enorme poi. Sì, fu difficile perché ci messe un anno di prove, di stesure con Roberto Danè, che sì, è il curatore, esatto, del disco. Cioè, Piero De Berberi ha solo curato gli arrangiamenti, mentre Roberto Danè gli ha dato un impulso non da poco. E a tal proposito, caro Dario, Roberto Danè scrive nella presentazione una cosa bellissima alla fine, che questo: credo che questo disco di Fabrizio entri a far parte, volente o nolente, sia bene o sia nel male, del costume italiano. E effettivamente è entrato a far parte, no nolente, benissimo, è entrato a far parte del costume italiano. E rimarrà tale, a Dario, cosa dici? Beh, senza ombra di dubbio, anche perché essendo noi, l'Italia, essendo anche un paese di fede cristiana, avendo, certo, anche il Vaticano con sede nel nostro paese, sicuramente questo album ha toccato appunto l'argomento di Gesù Cristo, poi detto anche da, cioè fatto anche da un laico, esatto. Come addirittura c'è chi lo definisce un non credente proprio, nel senso un ateo completo. A mio parere, a dir la verità, non soltanto attraverso la buona novella ma anche attraverso altri brani, De André pregava spesso, nel senso preghiera a gennaio, dico un esempio, smisurata preghiera. Secondo me aveva anche un grande, o meglio, forse aveva, cercava, era un gran ricercatore, non dico di una verità, ma di un qualcosa che lui forse non sentiva, oppure non lo definiva come, non so, fede, o come, non lo vedeva come Dio, ma forse si sentiva attratto da un qualcosa di mistico che lui non riusciva a decifrare. Mi ricordo che ho letto una cosa molto bella che raccontava durante il suo rapimento, quando è stato rapito in Sardegna, che diceva che all'incirca così, lui ha detto: non sono diventato credente, ma in quel momento di difficoltà, di solitudine, mi sono ritrovato a trovarmi vicino a un qualcosa che io non riesco a definire. E lui ha detto addirittura che dopo quell'avvenimento gli riusciva più difficile a bestemmiare, nel senso che era non so, è stata una cosa forse che si è sentito, si è bloccato forse, o cioè sicuramente l'ha colpito, sicuramente poi un rapimento non è un fatto così semplice da superare. Tutta la vita, insomma. Esatto, è un qualcosa che ti resta dentro, anche perché comunque è stato privato della libertà della scrittura, cosa che per lui era fondamentale nella sua vita. Esattamente. Però già questo, scrivere un'opera del genere da una persona non credente, diciamo così, ma poi si possono usare infiniti termini, sia stato qualcosa di ancora più grande. Allora, diciamo che da dove si è ispirato De André, insomma, si è ispirato da questi Vangeli apocrifi, dal Protovangelo di Giacomo, dal Vangelo dell'infanzia arabo, dell'infanzia, dalla prima parte del Protovangelo di Giacomo, dalla seconda parte del Vangelo arabo dell'infanzia. E apocrifi non vuol dire falso, sono dei Vangeli che non sono i Vangeli classici, canonici, che raccontano degli episodi che certi Vangeli, che i Vangeli classici non raccontano. De André ha voluto ispirarsi a questo perché, secondo lui, i Vangeli apocrifi raccontano Gesù Cristo in forma più umana. Questo è il motivo per quello ha voluto ispirarsi a questi Vangeli apocrifi. Questo è il motivo, il tredunio per la stesura della buona novella. Che poi, tra l'altro, originalmente fu appunto Roberto Danè a avere proprio questa idea. Sì, questa idea è stata parte. Che poi lui l'aveva proposta a Duilio del Prete. Sì, l'aveva proposta a Duilio del Prete perché Carrara, che era il produttore, diceva: sì, proponiamo Duilio del Prete, però c'è Fabrizio che è un po' in crisi, non sa che cosa fare. lo proponiamo a Fabrizio, è stata una proposta aggiudicata. C'è la battuta, appunto, sì, che dice: sa, è un periodo che è un po' in crisi Fabrizio e non sa cosa fare, diamogli questa opera da fare. Insomma, ci hanno visto in pieno. Allora, questa opera, come dicevamo poc'anzi, segue le caratteristiche un po' appunto di questi Vangeli apocrifi e quindi sottolinea più che altro l'aspetto più umano e meno spirituale assunto da alcune tradizionali figure bibliche come Giuseppe, e presta veramente maggiore attenzione a figure minori della Bibbia, cioè come Tito, Dimaco e i ladroni crocifissi insieme a Gesù. Io direi, se siete d'accordo, di cominciare proprio a leggere, musicalmente parlando, quest'opera con la prima canzone, che magari Dario, se ci vuoi dire qualcosa, cioè la prima vera canzone, perché già siamo ascoltati Laudate Dominum, ma poi insomma lui apre il disco con raccontando l'infanzia di Maria. Sì, racconta di lei, insomma, di questa bambina, perché comunque è stato bello, il bello di Fabrizio appunto è stato portare nelle figure umane di diciamo così, di questi protagonisti, no? Perché possiamo vederla anche così, è riuscito a portarla bambina, cioè veder Maria come una bambina non è usuale. Che aveva 3 anni. Esatto. Tempio che aveva 3 anni. E cosa dire, è fantastico nel poter immaginare Maria, questa la madre, insomma, del figlio di Dio, vederla così bambina, portarla nel tempio. E, insomma, ma già il brano racconta tutto da solo. Certo, dice: dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e Signore. L'ascoltiamo. Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona, forse fu per bisogno o peggio per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fossi un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e Signore, a misurarti il tempo fra cibo e Signore. Sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine si fa lotteria. Sciogli i capelli e guarda, già vengono. Guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda la pelle, che nella pietra, vista del sole come la neve. Guarda le mani, guarda il viso, sembra venuta dal paradiso. Guarda le forme, la proporzione, sembra venuta per tentazione. Guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda le mani, guarda il viso, sembra venuta dal paradiso. Guarda gli occhi, guarda i capelli, guarda le mani, guarda il volto, guarda la carne, guarda il suo viso, guarda i capelli del paradiso, guarda la carne, guarda le collo, sembra venuta dal suo sorriso, guarda le occhi, guarda la pelle, guarda la carne del paradiso. E fosti tu, Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione. E mentre te ne vai stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio che ormai si riposa. Secondo l'ordine ricevuto, Giuseppe portò la bambina nella propria casa e subito se ne partì per dei lavori che lo attendevano fuori della Giudea. Rimase lontano 4 anni. Ecco, come avete potuto sentire, insomma, c'è questa infanzia difficilissima per Maria, lei che vive in questa, diciamo, segregata nel tempio alle prime mestruazioni. Per i sacerdoti dicono che fu colpa di tuo omaggio, la tua verginità si tinge di rosso. Sono parole veramente forti. Poi è scelta quasi d'obbligo proporgli uno sposo, quindi la allontanano, la portano verso un uomo buono, e questo uomo in questione appunto si chiama Giuseppe, che poi sapete, insomma, è un vecchio falegname. Sì, musicalmente è un pezzo molto bello, molto interessante. Ci sono i cori femminili e i cori maschili. Il coro maschile si velocizza come fosse una tarantella, caro Dario. Posto un'idea geniale quella di De André, una ballata assolutamente alla De André, proprio una chiave di volta della sua musica. E musicalmente un pezzo molto forte, interessante anche come arrangiamento. Berberi ha fatto un lavoro molto prezioso, molto interessante all'epoca. Beh, senza ombra di dubbio, insomma, in tutto quello che si può ascoltare di De André, ma in particolar modo in questo brano, si sente che è stato un arrangiamento studiato. Poi si sa che comunque Fabrizio era una persona, si definiva sempre ansiosa, non era mai sicura, e finché non aveva trovato la perfezione, anche perché viveva praticamente di notte. Esattamente, lui viveva di notte esatto. E praticamente dormiva di giorno. Esatto, e lui era puntiglioso in tutto, se non era il brano era perfetto non andava bene, e sicuramente questo cambio di ritmo è stato studiato all'ennesima potenza, diciamolo così. E dobbiamo dire che aveva un parterre de roi come musicista, aveva i quelli, una volta si chiamavano i quelli, che erano la PFM, ed era, e poi anche al violino c'era un giovanissimo Angelo Branduardi e un giovanissimo Maurizio Fabrizio alle chitarre, quindi gente sconosciuta all'epoca, poi sono diventati chi sono diventati. Quindi un parterre de roi, dei musicisti straordinari per un album straordinario. Poi c'era anche Pagani ai flauti, se non sbaglio. Esattamente, la PFM praticamente, quindi una cosa bellissima. Adesso però incentriamo su Dario Pettucco, la tua versione del pezzo adesso. Che la farai? Loro versione. La loro versione del pezzo. Adesso noi praticamente vi presenteremo il ritorno di Giuseppe. In sequenza poi il ritorno. Esatto, che praticamente, come diceva sulla fine di questo brano, che è dovuto partire per fare dei lavori, e mentre torna si trova in mezzo a questo deserto con un asino che gli fa compagnia, e poi alla fine ritroverà Maria che le dirà cosa è successo, insomma. E vi lascio alla nostra musica degli specchi di un'avventura. L'ascoltiamo. Ascoltiamo. si contendono il cielo a frotte, luci meticolose nell'insegnarti la notte. Un asino dai passi uguali, compagno del tuo ritorno, scandisce la distanza lungo il morire del giorno. Segatura, minuscoli frammenti della fatica della natura. Gli uomini della sabbia hanno profili d'assassini, rinchiusi nei silenzi di una prigione senza confini. Carezza il disegno d'una bambola magra intagliata nel legno. La vestirai Maria, ritornerai a quei giochi lasciati quando i tuoi anni erano così pochi. Sue dita come lacrime, dal tuo ciglio alla gola, suggerivano al viso, una volta ignorato, la tenerezza di un sorriso, un affetto quasi implorato. e lo stupore nei tuoi occhi salì dalle tue mani, che vuote intorno alle sue spalle si colmarono ai fianchi della forma precisa d'una vita recente, di quel segreto che si svela quando lievita il ventre. E a te che cercavi il motivo d'un inganno inespresso dal volto, lei propose l'inquieto ricordo fra i resti d'un sogno raccolto. Giuseppe torna a casa con una bambola per Maria, la trova che gli chiede affetto, gli chiede attenzione, e qui si scopre quanto, tra virgolette, poco valore ha la volontà di Giuseppe stesso, costretto a prendere in sposa una bambina. Sì, anche perché Giuseppe era un anziano signore, sì. dai testi apocrifi addirittura si dice che avesse abbia, 90 anni. Sì, esatto, che avesse 90 anni, fosse già stato vedovo e avesse avuto 6 figli. Di conseguenza, un signore di 90 anni che si trova una ragazzina di quasi 12 o 12 compiuti, era una cosa anche difficile per lui da immaginare come moglie. Pensiamoci anche al giorno d'oggi, che siamo un po', forse un po' più emancipati, o comunque grosse difficoltà non ci sono nel vedere magari una coppia tra una ragazza giovane e un signore un po' più anziano o più vecchio. Però al suo tempo già 90 anni erano tanti, e comunque era una differenza d'età enorme, anche perché insomma una volta ci si dimentica sempre, secondo me, di pensare e di ragionare in come si viveva in quei tempi. Poi magari lo vedremo nel testamento di Tito, però in quei tempi non c'era la classica pizza tutti insieme, oppure si usciva insieme, magari, che ne so, abbracciati per mano, un bacio in pubblico era una cosa, adesso non so se fosse stata vietata, però comunque l'adulterio era punito dalla pena di morte. C'è una bella storia, vabbè, dopo casomai la vediamo dopo, però sul fatto del concepimento di Maria, quando appunto l'angelo gli dirà che concepirà il figlio di Dio, lui essendo stato in giro per molto tempo, chissà magari cosa poteva pensare la gente, no? L'adulterio di lei, e questo appunto venendo punito con la pena di morte, magari lui cercava di nascondere o comunque di darle affetto, perché comunque... Sì, chiaramente era questo il discorso. Musicalmente come l'hai portato, l'hai costruito questo pezzo? Io l'ho sentito come molto vicino al blues. Beh, per gli arrangiamenti qui bisogna parlare con i ragazzi, cioè con Manuel e perché con Roberto. Il pezzo di De André è molto lento, c'è un sitar indiano, stasera il sitar indiano chiaramente non l'abbiamo, però questo blues che più o meno c'è, si sente, si intravede, e viene fuori, c'è poco da fare. Beh, in questo pezzo in particolare non si può non dire che la PFM è stata un'ispirazione fondante, cioè non si può assolutamente negare. E per noi è stato la rivisitazione fatta dalla PFM, sì, riportare in acustico quel tipo di sonorità che suona in elettrico e suona molto forte ed è anche molto diverso dall'originale, appunto, a questo, che il testo era pesante nel senso molto forte, molto chiaramente carico. Di André ha calcato su determinate cose, sì, la PFM in particolare riesce a valorizzare alcuni punti, in particolare nel punto finale dove generalmente si tende a chiudere, per esempio, la parte della strofa, la PFM apre e lancia il solo in una maniera veramente molto evocativa, dove il testo richiama il fatto del ricordo dei sogni, no? Certo. E da lì parte il solo, è bellissimo. E questo è il pezzo che abbiamo proprio più sì, ricalcato, più vicinato al... Sì, assolutamente. E, però sì, un po' del nostro naturalmente abbiamo cercato di metterlo, anche perché noi siamo in due alla fine, per cui cerchiamo di... Chiaramente, di colorare diversamente. È una cosa importante l'approccio da parte tuo, Dario, a De André. Come è nato, come si è sviluppato? Beh, questa è una storia molto bella, perché praticamente è nata con la richiesta del coro dei cantori di Marostica, in particolar modo, di partecipare come parte, uno dei solisti, appunto, della rievocazione della Buona Novella, insieme al coro Armonia Nova, che sono due cori di Marostica, praticamente nelle vicinanze di Marostica, Marostica e Molvena, e mi hanno chiesto di partecipare, appunto. Io ho accettato volentierissime, anche perché all'interno dell'orchestra, all'interno del coro di Marostica, dei cantori, c'è mia mamma, e all'interno della, diciamo così, dell'orchestra c'era e c'è ancora mio papà che suona la batteria, e per me è stata una cosa molto molto bella, anche affettiva, diciamolo così. E, è cominciata così, mi hanno chiesto appunto di partecipare, io ho accettato davvero davvero volentieri, e poi è cominciato un ciclo di concerti che subito sembrava di dover fare una, due date, e poi abbiamo cominciato a farne addirittura 15 edizioni in un anno e mezzo, due. E poi noi, ad esempio, siamo nati noi specchi, appunto, chiedendomi di introdurre lo spettacolo, perché la Buona Novella in sé dura 45 minuti, con i cori non ci sono pause, è un continuo senza applausi, proprio per evocare perfettamente l'ambiente. E chiedendomi appunto questo appoggio, io sono andato dal mio caro ormai amico da anni Roberto, che suonava già con me in un'altra band di calibro 9, e lui mi ha fatto conoscere Manuel, lavoravano già insieme, è stato un insieme di coincidenze, io le chiamo coincidenze, poi secondo me sono dei segni, ed è nata un'affinità da subito musicale che ci ha uniti e ci fa sentire tra virgolette forti, o comunque molto in sintonia. Quando suoniamo, tante volte io li, se si può dire, li maledico ogni volta, perché quando c'è da riarrangiare un brano o da rifarlo le prove, riusciamo sempre a emozionarci uno con l'altro, ed è stata questa unione, no? E questo ci ha portato ad accompagnare quasi sempre lo spettacolo della Buona Novella con i cori, e poi a fare altri concerti. Poi vi ricorderò un concerto che abbiamo la settimana prossima. Benissimo. Dobbiamo sottolineare una cosa, che la magia della Buona Novella, 5.000 persone hanno visto la Buona Novella, quindi più di 5.000 persone, quindi sì, un disco immortale, la magia del messaggio che ha mandato. Io sono rimasto colpito, anche perché De André l'aveva abbandonato a livello musicale tra virgolette da un po' d'anni, per varie motivi, per varie ispirazioni, però la cosa che più mi ha colpito è che ogni concerto che abbiamo fatto, abbiamo praticamente quasi sempre fatto il sold out, cioè tutti i teatri, tutti i parchi, era sempre pieno. C'è sempre stato un afflusso del pubblico, è stato enorme. Ma poi la cosa più bella, secondo me, è che si vedevano persone dai 70 anni a ragazzini di 15 anni che cantavano le canzoni di De André, e questo mi ha stupito, perché ad esempio io da giovane non mi sono così avvicinato a De André come adesso, forse ho la maturità giusta per farlo, ma è stata questa una sorpresa, davvero è riuscito ad unire tantissime generazioni, poi colpendo cercando questo argomento, abbiamo visto davvero tantissima gente arrivare ai concerti, alle opere, e poi davvero il risultato poi si vede al di là dell'applauso finale o durante il brano, nel nostro caso, ma nel silenzio del pubblico. Cioè riempire un teatro di 700, 1000 persone e non sentire una mosca volare, e quella è stata un'emozione, una perché cosa perché era il racconto più importante della storia, e quello rimane, c'è poco da fare. Sì. Sì, sono d'accordo anch'io con Maurizio, è il racconto più importante della storia in tutti i sensi. Poi credo che quest'album al primo ascolto non riesce forse a farsi capire come dovrebbe essere, ci vuole un po'. Tenendo presente poi che quest'album, questo LP, questo vecchio 33 giri, c'ha 43 anni. Sì, è incredibile. Cioè, è incredibile ascoltarlo adesso, io ti garantisco, adesso non perché sei tu, ma insomma, mentre lo suonavate, io ascoltando le parole anche prima durante le prove, veramente ti veniva, mi venivano i brividi, lo confesso, mi stavo emozionando. È talmente intenso in quello che lui dice in questo quest'album che è difficile restare insensibili. Intenso, scritto da un ateo, perché lui è fondamentalmente un ateo, ma è un ateo che se che praticamente studiando la buona novella, studiando i Vangeli, studiando il racconto della vita di Gesù Cristo, praticamente si è immedesimato al 100%. Sì, un capolavoro assoluto. Non c'è una piccola fase calante, è tutto al di sopra, sempre al massimo. Sì, poi non c'è mai una vena critica, perché no, assolutamente. Uno potrebbe essere di parte e dire no. Ma per me non va bene, per me è sbagliato, anche se poi va bene, ad esempio dopo vedremo nel testamento di Tito dirà la sua, però lo dice sempre con un grandissimo rispetto, nel senso un grandissimo che rispetto. Non ha mai mancato di rispetto nella figura di Cristo e nella figura di Maria, soprattutto poi nell'Ave Maria lo vedremo, lo sentiremo, però... E questa è la grandezza di Andrea. Ad esempio, a me piace a volte prendere questa opera e leggerne delle parti senza musica. Se tu prendi alcune strofe e le leggi così, al di là della poesia, che si diceva che Fabrizio era un grande poeta, e lo è stato e lo è, lo sarà, su questo non c'è ombra di dubbio, però è proprio la bellezza dei versi, se tu li leggi senza musica, cioè fuori dalle parti musicali, proprio... non schierandoti tra virgolette musicalmente, prendi i testi e cominci a leggerli, è un racconto che è di una bellezza, di una... è anche ironico un po'. Sì, sì, cioè, assolutamente. Ci mette un po' di ironia oltre alla poesia. Era anche lui così, era una persona sì, spesso malinconica, insicura, però era una persona insomma di grandissima cultura. E aveva anche una vena ironica, anche perché comunque si sa che era grande amico di Paolo Villaggio, e penso che per stare con Paolo Villaggio non puoi certo. Non ridere o non sì, far certo. Ridere e in questo disco comunque i testi come dicevamo sono fatti un po' con la poesia e l'ironia, insomma, che contraddistingue Fabrizio, tutti al di fuori di Gesù come personaggio. Lui, Gesù è visto come un personaggio quasi un'entità astratta. Ha puntato soprattutto su Maria, su Giuseppe e, come dicevamo prima, su Tito e quant'altro, ma Gesù l'ha messo un po' lontano, perché mi pare che abbia detto una frase molto importante: l'amore è un potere che non può avere padroni e nessuno può essere dominato. Con l'amore non si sopravvive, si vive, perché Gesù Cristo è amore. Questa è la frase più importante, è il concetto fondamentale dell'opera, secondo me, di De André, della Buona Novella. Sono d'accordo. Torniamo a Maria, torniamo a questa unione con Giuseppe. Lei dorme e arriva in sogno un angelo. Giusto? Giusto, il sogno di Maria. Giustissimo. L'ascoltiamo e poi magari ne parliamo. L'angelo scese, come ogni sera, ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese, conosci l'estate? Io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento. Volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vita. Scendemmo là, dove il giorno si perde, a cercarsi da solo, nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci. Con le ali di prima pensai di scappare, ma il braccio era nudo e non seppe volare. Poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietra. Le loro braccia profili di rami, nei gesti immobili d'un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Voci di strada, rumori di gente mi rubarono il sogno per ridarmi al presente. Spiadi l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontana di brevi parole ripeteva ad un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio, parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno, ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semichiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa d'uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. È lo stesso angelo che Maria riceveva in sogno, l'andava a trovare, insomma, quando era nel tempio, e le divideva il tempo fra cibo e signore, si racconta Fabrizio De André. E lei dice: forse era sogno, ma sonno non era. Faber dice, a proposito di questo pezzo, che è un pezzo molto difficile, oscuro per certi tratti, dice questo: il tipo di taglio che ho fatto, che ho conferito a questo argomento, probabilmente i personaggi del Vangelo perdono un pochettino di sacralità, ma lo acquistano un'altra cosa, acquistano la umanità. Quello era il centro del discorso. Sì, e qui è bello, secondo me, su questo brano, quando lei parla di questo volo, quando lei vola sopra i tetti e sopra le case. È una figura, io non so, quando la canto mi sembra di vedere questa bambina con questa gioia, con questa voglia di scoprire le cose. Già noi entrare in un aereo e poter volare, quando mi è capitato di viaggiare e vedere queste famiglie con questi bambini che si affacciano al finestrino e vedono fuori queste nuvole, no? Vedere questo angelo che porta questa bambina, sentire l'aria addosso, sentire gli odori, deve essere una cosa meravigliosa. E secondo me lo ha fatto con questa tenerezza, con questo, a me piace ripetere il termine rispetto, questa portarla appunto in questa fanciulla che vola, è davvero, non so, è bellissimo. Poi ci sono anche alcune alcune frasi, quando dice: poi vidi l'angelo mutarsi in cometa e i volti severi divennero pietra, le loro braccia profili di rami, e qui è una poesia meravigliosa, nei gesti immobili di un'altra vita, foglie le mani, spine le dita. Questa è una metafora, mi viene la pelle d'oca ogni volta che la canto e che la leggo, così, perché l'immaginazione, poi qui si vede l'immaginazione di Fabrizio, la sua grande cultura. Però, il grande studio, esatto, il grande studio no? Un anno e passa di studio. Però riuscire a mettersi nella testa di una bambina, e la bambina ha questa grande fantasia, i bambini hanno una fantasia che è meravigliosa, a volte ci lasciano senza parole, vedere appunto che questi bambini vedono le foglie diventare mani e le spine diventare dita, o il contrario, cioè è fantastico, io a volte ci resto senza parole. E questo pezzo è una canzone di silenzi. Sì. Da parte tua e da parte della band, un pezzo di silenzi, il sogno di Maria, un pezzo di silenzi, perché la gente deve capire, deve interpretare, sognare, deve interpretare il sogno, deve capire perché il sogno lo fai quando stai dormendo, e noi cerchiamo di siamo in tre, no? E dobbiamo cercare di fare quelle atmosfere che a volte si hanno con un'orchestra, con una band, con degli archi, con dei fiati, noi non ce l'abbiamo. Abbiamo due chitarre. Sì, abbiamo due chitarre. Nel senso che, perché io non le uso. Ho quattro mani? Quattro mani. 20 sì. dita? Sì. Che diventano centinaia a volte, riescono a fare, poi, vabbè, con l'utilizzo anche della tecnologia, per carità, però la loro bravura. È una tecnologia mirata. Sì. Assolutamente mirata, perché un pezzo, un concept album simile, per l'approccio di un disco, a un disco simile, non si può usare la tecnologia pesante. No, assolutamente. Assolutamente no. Deve essere mirata, perché è tutto molto leggero, molto sospiro. Anche se i testi sono forti. Certo. Anche se ascolti la versione della PFM, loro infatti, è stato fondo bravissimo, sì, Ago. Agostino. Hanno una. Utilizzano l'elettrico, si sente la band, no? Si sente l'organo, tutto il resto, però lo utilizzano con grande intelligenza, cioè anche le chitarre non sono così distorte, sono, è tutto portato al peso giusto, ogni cosa è messa al suo posto. Noi ad esempio anche nei nostri spettacoli, oltre alla buona novella, cerchiamo sempre di riarrangiare, perché comunque è il nostro scopo. Io ad esempio non ho assolutamente una voce De Andreian, però appunto per questo. Ma nessuno ha una voce assolutamente, solo lui è la sua voce. Su questo siamo d'accordo, però il nostro appunto è un omaggio, non è una cover o una tribute, è un omaggio, perché portiamo i brani di Fabrizio con il nostro spirito, la nostra interpretazione, e cerchiamo sempre di farlo con grande rispetto e delicatezza, a volte anche con toni più duri, per carità, però sempre con l'equilibrio che ci deve essere in questi brani, soprattutto qui con la buona novella. Insomma, lo studio è stato parecchio, i ragazzi hanno lavorato, abbiamo lavorato tutti insieme, poi loro sono gli arrangiatori veri e propri. A proposito di questo, quando hanno chiesto a Franco Mussida, che faceva parte dei musicisti che hanno suonato con De André, si chiamavano i Quelli, come abbiamo ricordato prima, che cosa pensi della buona novella, lui ha detto una frase lapidaria: è un disco che non si può etichettare. No. Più bello di così, non si può etichettare, è la buona novella e basta, è quello importante, fondamentale, per capire anche un percorso difficile, complesso, per un musicista come De André, avvicinarsi a un tale personaggio come Gesù di Nazareth. Sì, poi l'hanno fatto anche in grande maniera, nel senso, inserendo, questa era la grande capacità di De André, anche di circondarsi di grandi arrangiatori, poi c'è stato Pagani, Bubola e tutto il resto, però riuscire a, come ho detto prima, a rifarsi ai quei tempi, cioè utilizzare strumenti, dare l'atmosfera giusta per il deserto. Si è immedesimato nei quei tempi. Lui citava, quando ha fatto la presentazione al Brancaccio, 1968 anni fa, perché all'epoca è stato presentato nel 70. Sì. Però sono passati 2000 anni, ma l'idea è sempre quella, cioè la suavità, la gioia nell'interpretare le cose e la difficoltà nell'interpretarlo, questo è importante. No, De André è riuscito ad andare oltre, secondo me. Sì, anche perché magari si può rischiare, passatemi il termine, di cadere nel banale, nel certo, senso che... Certo, non è facile. Non è facile parlare di un personaggio del genere, nel senso che Gesù Cristo, lui lo definisce... Si può cadere nella retorica. Sì, esatto, no? Nel classico... canonico, diciamolo così, nel senso, non perché si è svegliato, anzi non voglio dire questo, però è molto più semplice cadere nella fede o comunque nel credere. Invece lui ha fatto completamente il contrario, cioè ha portato l'umanità dei personaggi, li ha portati proprio umani, nel senso non li ha visti come dei, oppure come ad esempio Maria l'ha vista come una donna meravigliosa. Ad esempio nell'Ave Maria io lo trovo un brano di una... Che ne ha fatte due Ave Maria. Sì, è vero, ne ha fatte due, ma questa poi sentirete la nostra versione. Qui cerco di dare, per quanto mi riguarda, il massimo rispetto a questa donna, come lui ha fatto senza ombra di dubbio. E poi io lo dico sempre ai concerti, c'è una cosa importante che dico sempre e ribadisco, è una cosa basilare. Tutti quanti ci dimentichiamo, cioè tutti i giorni, non dico tutti i giorni, ma spesso si chiede l'aiuto di Dio, no? Il miracolo, qualcosa che ci faccia cambiare, non so, qualcosa nella nostra vita, magari in questi momenti di difficoltà economica, di lavoro, tutto il resto. Però non ci rendiamo conto che il vero miracolo Dio ce l'ha già dato, nel senso che con il concepimento penso sia il più grande mistero e la più grande potenza, perché è una potenza, una donna quando è incinta ha una forza che è incredibile, quando dicono che addirittura una donna riesca a riconoscere tra mille bambini quale sia l'urlo di suo figlio, cioè noi uomini non possiamo comprendere questa, è una cosa meravigliosa, una donna si trasforma due vite in una, cosa c'è di più bello? E tante volte non ci rendiamo conto di questo, infatti secondo me De André qui l'ha toccato proprio con l'Ave Maria, ha dato questo sorriso che lui gli dice non saprai se poi riderai o piangerai dal dolore, però... care amiche che mi hanno partorito mi dicono sempre il dolore è enorme, però quando vedi tuo figlio lì non senti più niente, sparisce tutto. E questo lui è riuscito a portarlo anche in Maria, che tutti ci immaginiamo, sai, questa santa, questa donna che sorride sempre, invece era una donna anche lei, dargli questa, come prima, essere fanciulla, essere donna. C'è una frase che secondo me forse per me è la più bella, ma nel senso che, per il senso che dà, che dice femmine un giorno e poi madri per sempre. È immenso, una cosa così è immensa secondo me. Io volevo far ascoltare qualche istante di quello che ha sottolineato Dario, cioè come l'hanno fatta la PFM e il sogno di Maria. Voci di strada, rumori di gente, mi rubarono al sogno per ridarmi al presente. Sbiadì l'immagine, stinse il colore, ma l'eco lontano di brevi parole. Ripeteva di un angelo la strana preghiera, dove forse era sogno, ma sonno non era. Lo chiameranno figlio di Dio. Parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno, ma impresse nel ventre. E la parola ormai sfinita si sciolse in pianto, ma la paura dalle labbra si raccolse negli occhi, semi chiusi nel gesto di una quiete apparente che si consuma nell'attesa di uno sguardo indulgente. E tu piano posasti le dita all'orlo della sua fronte. I vecchi quando accarezzano hanno il timore di far troppo forte. E qui Maria si sveglia, si accorge di essere incinta, capisce quantomeno che è incinta, si scioglie in un pianto e Fabrizio gli dedica un'Ave Maria, un omaggio alla donna nel momento del concepimento. Ave alle donne come te Maria, femmine un giorno e poi madri per sempre. Sì, Faber a proposito di questo ha scritto e ha detto: per me il mondo della donna è sempre apparso come il mondo del sacrificio. Il sacrificio prima di tutto della maternità. È chiarissimo. L'ha interpretato così. Lo doveva interpretare così. Quel disegno, cioè, musicalmente è una cosa meravigliosa. È una ballata dolcissima rispetto all'altra che ha fatto un po' più anni dopo, un po' diversa, musicalmente sì, molto diversa. Questa è una ballata dolcissima e molto pregnante, molto piena di pathos. Come l'ha interpretata te stasera? Si vedeva che ci tieni moltissimo a questo pezzo. Pezzo meraviglioso, come tutti i pezzi dell'album sono meravigliosi, ma ognuno ha una colorazione diversa, la chitarra e la voce, basta. È l'unico pezzo che non è collegato a nessun Vangelo, è un'intuizione di Fabrizio e basta. È un'ave a tutte le donne. Io con Manuel, quando facciamo questo brano, non so descriverlo, io dico sempre che bisognerebbe provare 2 secondi all'interno del mio corpo, della mia mente, per capire cos'è. Abbiamo cercato di portare davvero nel nostro massimo il rispetto per Maria, ma per tutte le donne in questo momento così importante che è il concepimento, l'avere appunto, come dicevo prima, 2 corpi in uno, una responsabilità immensa, ed è secondo me una visione, non so, Fabrizio è riuscito a passarmela così, cioè a trasmettermi queste emozioni. Poi noi, dico sempre, portiamo le nostre sul palco, però è l'input che lui è riuscito a dare con queste parole, con questa, non dico neanche sia una poesia, sembra neanche una ninna nanna, però è una poesia che ha una ninna nanna insieme, nel senso che è così dolce, così rispettosa, sembra quasi inchinarsi alle donne. Ed è davvero grandioso, questo brano è... me ne sono davvero innamorato. E poi si sente anche da come lo canti. Certo, certo. Poi Fabrizio dà una visione umana e terrena della Vergine, però, che trascende l'umanità, è quello importante. Umana e terrena, sì, ma che trascende, che intenta è innalzarsi. Per me l'Ave Maria è proprio quella. Infatti, dico, non finirò mai di dirlo, per uno come Fabrizio, che non credente, lo stesso, cioè lui nel dire Ave Maria, già questo crea scalpore, secondo me, scalpore tra virgolette, nella personalità di Faber, dopo in quel periodo, con tutti i problemi che c'erano sociali, si ritorna al discorso di prima, insomma, però all'interno di una buona novella raccontare la storia di Dio, di Cristo, il figlio di Dio, attraverso un album in quel periodo e fare un'ave a Maria, voglio dire, e portare sempre all'umanità, cioè portare la donna, la Maria, la santa, sì, la chiave umana. Esatto, è incredibile. Che davvero trascende, però, la chiave umana, sì, che trascende, che si libera, si alza praticamente. Allora, ci stiamo emozionando, io prima di andare... Questo in dubbio. Allora, vi voglio ricordare che questa è sempre comunque la vostra emittente in questo preciso istante, si chiama Blu Radio Veneto, 24 ore su 24 in streaming, se ci ascoltate tramite il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì ci potete trovare anche tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, la recensione sui vari artisti che passano, succedono via via qui nei nostri studi e ci regalano la loro musica. Questa sera è una serata particolare, straordinaria, come dicevo prima all'inizio. Abbiamo pensato io e Maurizio assieme a Mirko Cavallin di dedicare questa serata, che è il nostro coordinatore, di dedicare questa serata a questa opera, a questa immensa opera di Fabrizio D'André, cioè La Buona Novella, con l'ausilio, l'aiuto, meglio dire, di una band, di un trio, si chiamano Specchi di un'avventura, c'è Dario Petrucco alla voce, Roberto Boscardin, Emanuele Moccellini alle chitarre, e ci regaleranno ancora un'altra ora circa in loro compagnia, la loro musica, ma soprattutto ci regalano le emozioni di questo disco. Vi ricordo ancora il nostro numero telefonico, quello in studio è lo 049 875 6423, e mentre se ci volete mandare sms siamo ben felici di leggere di anche le vostre considerazioni in questa opera, perché no, siete liberissimi veramente di farlo, basta semplicemente mandare un sms al 346 23 20 033, oppure potete usufruire anche della mia pagina di Facebook se ho chi è collegato, e cioè semplicemente Agostino Spolaore, e lì ci potete scrivere quello che volete, oppure anche sulle nostre pagine di radio, e io puntualmente leggerò quello che voi eventualmente chiedete e volete sapere, insomma, qualcosa. E poi ancora ricordo un'altra cosa importantissima: se ci ascoltate il giorno di sabato non siamo in diretta ma siamo registrati, quindi non mandate messaggi, non telefonate, perché la trasmissione verrà messa in replica appunto per questa eccezione sabato dalle 18 alle 20, quindi non chiamate, non mandate messaggi il giorno di sabato, giorno prima di Pasqua, insomma, ecco. La laicità di Fabrizio non impedisce allo stesso Fabrizio di dire questo, che secondo me La Buona Novella è il miglior disco che io abbia mai scritto. Quindi un'affermazione forte, importante. Sì, anche perché comunque poi Fabrizio ha composto degli album, insomma, non da poco. No. Non è che abbia fatto, voglio dire, un artista fa un grandissimo album, poi il resto sono mediocri, per carità di Dio. Dopo lui ha detto anche che più in là con l'età ha detto: a volte ho scritto anche delle lagne, sì, l'ha detto proprio lui, ha detto anche questo. Però sicuramente ha scritto dei brani con Fossati, con Bubbola, con Pagani, che sono ha scritto senza ombra di dubbio. Ad esempio, a noi piace molto ascoltare Creusa de Ma, che è forse il primo disco di World Music. Sì, esatto, che Musica Dischi, la notissima rivista di settore, forse la più importante, l'ha definito l'album del decennio. Sì, lo stesso David Byrne, leader dei Talking Heads, ha detto che è l'album più importante che lui abbia mai ascoltato. E poi c'è sempre il solito discorso che alla fine ripetiamo, ma è davvero così? C'è la ricerca che Fabrizio aveva in ogni sua cosa. Era un meticoloso, sì, era un meticoloso al 100%. Narrava il buon Bubola, era lo stesso De Gregori, che lui dormiva di giorno, come abbiamo detto prima, e componeva di notte, e praticamente lo stesso De André, lo stesso De Gregori e lo stesso Bubola dovevano svegliarsi alle 3 alle 4 del mattino per comporre con lui. Sì. E la stessa cosa è successa con La Buona Novella, con i Quelli, non è cambiato nulla. Quel modo di vivere, è questo il modo di vivere di Fabrizio De André. De Gregori, avevo letto da una, non mi ricordo su che intervista, che diceva che praticamente il primo periodo, se non sbaglio, erano in Sardegna. Sì, con volume ottavo. Con volume ottavo. Di Fabrizio che le prime settimane, se non sbaglio, dovevano trovarsi in quegli orari in cui Fabrizio si svegliava e lui andava a letto, avevano quelle 2-3 ore che coincidevano per comporre. Però era un meticoloso, cioè non era mai contento, continuava a cambiare, e quello è importante. Perfezionista al 100%. Buona Novella è un disco perfetto, perfetto al 100%, non ha niente da scartare, minimamente, non c'è né un accordo sbagliato né un arrangiamento difettoso, tutto ottimo, dal primo all'ultimo momento. Sì, sempre considerando, come diceva prima Agostino, che è stato scritto nel 70, nel 70, consideriamo 43 esatto, anni. E consideriamo gli strumenti che c'erano nel 1970, ma c'era la forza di dire un messaggio importante, quello è fondamentale. Ave Maria ha chiuso, perché se ricordate i 33 giri avevano lato A e lato B, facciata A, facciata B. Sì. E Ave Maria chiudeva appunto la facciata A, e Fabrizio ha aperto la facciata B di questo capolavoro con una canzone che, a mio modestissimo, sottolineo modestissimo parere, è una delle più belle del disco, e cioè Maria nella bottega dei falegname. È bella perché ci crea un contrasto, secondo il mio punto di vista, notevole con le altre precedenti canzoni, cioè passa dalla poesia, come si suol dire, anche musicale, ad una pialla che si sente battere, il martello che batte. È veramente un'idea geniale, secondo il mio punto di vista. Cosa ne pensate voi? Senza ombra di dubbio, sentire la pialla che il falegname utilizza, o il martello che utilizza per creare le croci, che poi È il dolore straziante. Esatto, croci. Falegname. Sì, porteranno appunto al patibolo, mettiamolo così. Cristo lui che sta costruendo la sì, croce, insomma secondo me è stata perfetta anche proprio girando il disco, ascoltando l'Ave Maria, che ti, non dico che ti metti sul divano e magari, che ne so, sei lì che davvero sogni, a un certo punto arriva questo colpo che ti risveglia, nel senso che ti fa saltare dalla poltrona, diciamo così, se la stai ascoltando in poltrona. È intelligentissima davvero, è stata studiata secondo me davvero anche qui nel minimo particolare, insomma anche qui si capisce quanto ha studiato e quanto meticoloso lui e i suoi e poi il discorso del falegname, il mestiere del falegname, annota molto bene Guido Micheloni in questo libro bellissimo. Il mestiere del falegname ha una forte valenza simbolica. Perché? Perché diviene lo specchio mediante il quale è possibile osservare soprusi, violenze e brutture della guerra. Questa è un'altra chiave che si può interpretare. L'ascoltiamo. L'ascoltiamo. Falegname col martello, perché fai dan dan, con la pialla su quel legno, perché fai fren fren. Costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia, ma tre croci due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare. Alle tempie addormentate di questa città pulsa il cuore di un martello, quando smetterà? Falegname su quel legno, quanti colpi ormai, quanto ancora con la pialla lo assottiglierai. Le piaghe alle ferite che sul legno fai, falegname su quei tagli, manca il sangue ormai, perché spieghino da soli con le loro voci quali volti sbiancheranno sopra le tue croci. Questi ceppi che han portato, perché il mio sudore li trasformi nell'immagine di tre dolori, vedran lacrime di Dimaco e di Tito al ciglio, il più grande che tu guardi abbraccerà tuo figlio. Dalla strada alla montagna sale il tuo dende, ogni valle di Giordania impara il tuo fren fren, qualche gruppo di dolore muove il passo inquieto, altri aspettano di far bene a quelle sedie d'argento. Questa è una canzone, come dicevo prima, molto bella, dice Tre Croci, due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare. C'è un ascoltatore che dice, ci sottolinea, dice, quando dice la più grande che tu guardi abbraccerà tuo figlio, mi vengono i brividi, il rispetto alla figura di madre. E lo salutiamo anche, ciao Stefano. È una cosa fondamentale, stavamo parlando con la band qua, Faber non rivela mai chi è il falegname durante il pezzo. Ed è bello così, deve rimanere così, secondo me. Non si sa chi sia. Sì, lascia questo mistero. Questo mistero, questo dubbio. Deve essere così. Sì, perché è geniale perché uno può interpretare. Chi? Può interpretare. Qualcuno dirà Giuseppe, ma Giuseppe è un po' troppo avanti negli anni. Certo. Chi può essere il falegname? Lo stesso Gesù che faceva il falegname fino, sì, a 30 anni, esatto. Lavorava nella bottega di suo papà. Quindi bello meraviglioso. Questa idea è stata geniale. Sì, questa pialla, questo martello. Anche con nella versione della PFM è molto accentuata. Parlavamo con i musicisti, è molto accentuato il suono, questa sofferenza. La pialla è sofferenza, questo rumore. Lo fai sentire adesso? Certo. Ecco, adesso lo sentiamo. Su quel legno perché fai fren fren, costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia, ma tre croci due per chi disertò, per rubare la più grande per chi guerra insegno a disertare. È grande. Sì, è grande. Grande anche la PFM. Sì. Questa versione, giustamente parlavamo con la band. La band è importante per dare le sensazioni a microfono spento. Ha questa versione rock, Franz Di Ciocio non ha la voce di De André. Ha questa tendenza al rock. De André non era proprio un rockettaro. Era uno che poteva andare anche sulla musica un po' più energica, ma lui era... fin di conti un cantautore che veniva dalla scuola francese, quindi assolutamente diverso. Sì, anche nei live con la PFM, negli ultimi live che ha realizzato, si sente che la PFM spinge dietro, spinge. Lui ha sempre il suo, è perfetto, Fabrizio così. Assolutamente, però la PFM ha dato una mano soprattutto negli ultimi live, sì, a tra virgolette, con tutto rispetto, lo utilizzo con le pinze questo termine, però a riammodernare un po' i brani, perché ad esempio Marinella è una canzone vecchissima cantata da Mina, rivista un po' con la PFM, cambia un po' il l'approccio, anche la versione, non mi ricordo, sull'album Mi innamoravo di tutto con Mina è stata addirittura jazzata, è di sì, una ma De André non ha rifiutato questo approccio, no, l'ha favorito in parte, l'ha favorito, ha lasciato stare, lasciato che, sì, le cose andassero avanti. Anche perché io parlo, ad esempio, per quanto mi riguarda come autore, lasciar scrivere a qualcun altro un arrangiamento, io per quanto mi riguarda, siccome è come fosse un figlio tuo, devi essere una persona di cui ti fidi e quello che fa deve piacerti, altrimenti sicuramente una persona così non faceva pubblicare, non ne aveva bisogno di denaro per pubblicare, no, dei brani in più, insomma, ecco. Adesso arriva la Via della Croce. Via della Croce, pezzo importantissimo. C'è questo lungo il cammino di gente che ci sono tantissimi, i loro sentimenti veramente contrastanti, premono, si accavallano, e De André veramente ci obbliga a sentirli uno a uno. Questo odio incontenibile dei genitori, dei neonati fatti uccidere da Erode, che vorrebbero, dice lui, poterti smembrare con i denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce e poi essere grato ad un brav'uomo di nome Pilato. Ci fa anche la rima. Beh, e poi dice: ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole. Le voci dei padri di quei neonati da Erode per te trucidati. Cioè, trucidati è un termine forte. Molto forte. Poi utilizza molte R per quanto riguarda a livello canoro. Queste cose le devo studiare, però è una parentesi che magari sembra tecnica, ma magari non lo è. La R porta al trucidato. Erode, già la parola Erode fa paura, perché comunque è stato, insomma, non è stato tra i più buoni. No, assolutamente no. Ascoltiamo la Via della Croce. Certo. Poterti smembrare coi denti e le mani, sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, di morire in croce, puoi essere grato a un brav'uomo di nome Pilato. Ben più della morte che oggi ti vuole, t'uccide il veleno di queste parole, le voci dei padri di quei neonati, da Erode per te trucidati. Nel lugubre scherno degli abiti nuovi, misurano a gocce il dolore che provi. 30 anni hanno atteso col fegato in mano i rantoli d'un ciarlatano. Si muovono curve le vedove in testa, per loro non è un pomeriggio di festa. Si serran le vesti sugli occhi e sul cuore, ma filtra dai veli il dolore. Fedeli umiliate da un credo inumano, che le volle schiave già prima di Abramo, con riconoscenza ora soffron la pena di chi perdonò a Maddalena. Di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno, e guardano in alto, trafitti dal sole, gli spasimi d'un Redentore. Confusi alla folla ti seguono muti, sgomenti al pensiero che tu li saluti. A redimere il mondo gli serve pensare, il tuo sangue può certo bastare. La semineranno per mare e per terra, tra boschi e città, la tua buona novella. Ma questo domani, con fede migliore, stasera è più forte il terrore. Nessuno di loro ti grida un addio, per essere scoperto cugino di Dio. Gli apostoli han chiuso le gole alla voce, fratello che sanguini in croce. Han volti distesi, già inclini al perdono, ormai che han veduto il tuo sangue di uomo fregiarti le membra di rivoli viola, incapace di nuocere ancora. Il potere vestito d'umana sembianza ormai ti considera morto abbastanza, e già volge lo sguardo a spiar le intenzioni degli umili, degli straccioni. Ma gli occhi dei poveri piangono altrove, non sono venuti a esibire un dolore che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son pallidi al volto, scavati al torace, non hanno la faccia di chi si compiace dei gesti che ormai ti propone il dolore, eppure hanno un posto d'onore. Non hanno negli occhi scintille di pena, non sono stupiti a vederti la schiena piegata dal legno che a stento trascini, eppure ti stanno vicini. Perdonali se non ti lasciano solo, se sanno morire sulla croce anche loro. A piangerli sotto non anche le madri, e in fondo son solo due ladri. Il dolore annientante delle vedove e le fedeli, insomma, umiliate da un credo inumano che le volle schiave ancor prima di Abramo, con riconoscenza ora soffrono la pena di chi perdonò a Maddalena, di chi con un gesto soltanto fraterno una nuova indulgenza insegnò al Padre Eterno. Sì, frase forte. Si cita le donne ebree, praticamente, perché nella seconda strofa c'è il pensiero delle donne ebree costrette dalla loro cultura ad essere schiave dei propri mariti anche dopo la morte degli stessi. Poi cita anche gli apostoli, la caducità umana, Dice, poi vengono gli apostoli che, timorosi di essere scoperti, non gli rendono omaggio quasi, e quasi lo tradiscono nel momento più doloroso, la caducità umana, l'uomo. E qui si vede davvero il lato umano, lui ritorna sempre, umano. Proprio vuole, secondo me ogni volta che c'era l'idea che arrivasse l'impronta della fede o della divinità, lui, mi piace immaginare così Fabrizio, che la allontanasse proprio, dicesse come una mare, una persona che ti viene vicino, ti dà fastidio, la allontani con la mano, vai via, io devo concentrarmi sull'umanità di queste persone. Che poi l'umanità bene. Trascende la fede, la certo, fede si ritorna, certo. Assolutamente. Cioè è un cane che si mangia la coda, cioè è un circolo, no? È un rientro, un'uscita, in continuazione. Che poi secondo me è anche questo che forse l'ha portato alla buona novella, cioè il non credere, è bravo. Interrogato. Il non credere alle persone di un certo livello ti fanno venire fame, no? Cioè di scoprire. E lui, secondo me, era una persona che, tra virgolette, sempre con le pinze, credeva più degli altri, nel senso che era in continua ricerca di un qualcosa in cui non riusciva a trovare la soluzione e continuava a scavare, cercare. Questo, secondo me, la fede di Fabrizio, cioè il continuo ricercare. È una cosa giusta, però, sia il fatto che molti teologi l'hanno chiamato ai congressi, lui non ha mai voluto ad andare, però molti l'hanno chiamato. È una cosa importante, la Radio Vaticana ha molto amato questo disco, mentre la Radio Italiana all'inizio aveva un approccio un po' difficile. Sì, forse magari non sapevano che risposta poteva avere il pubblico, perché poi sai come vanno le cose, no? Sempre una questione anche a volte di vendita, spesse volte, però in quel caso lì magari le radio italiane avevano più paura della radio vaticana, che forse magari l'ha capito subito. Sì. Un altro episodio famosissimo, quello di Dio è morto, amatissimo, sì. È trasmesso un sacco di volte dalla Radio Vaticana, censurato in modo incredibile dalla radio italiana. Era un messaggio, anche quello di Francesco Guccini era un messaggio, sì. Importante, pesantissimo, fantastico all'epoca. C'è una frase molto forte in questa canzone, dice: il potere vestito d'umana sembianza ormai ti considera morto abbastanza. Qui forse si fa capire la vera anima di De André. Sì, esattamente. Questo è un aspetto un po' anarchico quasi. Che lui, abbiamo detto all'inizio, Cristo era il più grande rivoluzionario della storia. Lui non poteva parlare di uno così, doveva parlare del più grande rivoluzionario della storia, che era Cristo. Lui poi ha fatto storia di un impiegato l'anno dopo, sì. Che parlava del maggio francese. Uh-huh. Buona novella e storia di un impiegato sono collegati, secondo me, da due tipologie diverse, però sono collegati dal modo di parlare del potere. Lui voleva parlare del potere. E con la buona novella ha parlato molto del potere. Cristo era al di là del potere. Sì, non c'entrava. Il potere era, cioè, riusciva, era lontano dal potere, era amore, quindi il potere non esisteva. Sì, forse anche il suo star lontano, diciamo così, dalla Chiesa poteva essere un discorso, appunto, che lui odiava il potere, no? E magari attraverso la Chiesa lui vedeva questo potere che magari in determinati casi c'era, e di conseguenza si allontanava, non si riconosceva. Infatti poi si vedrà sul testamento di Tito, dice delle frasi che insomma sono forti, però dobbiamo sottolineare una cosa, che poi De André è ritornato al discorso della Chiesa, si è riavvicinato, sì. Dopo la morte del papà, di suo padre, si è riavvicinato. Secondo me sono state anche le classiche vicende della vita, no? Certo, come prima certo. Dicevo della fede, del sequestro, si parte con un'idea, si lotta con quella, si fa una rivoluzione. Poi Fabrizio comunque si sa che era vicino ai movimenti anarchici, di conseguenza, diciamo così, i rivoluzionari gli piacevano, e le classi dirigenti, che siano state clericali o di potere politico, lui le ha sempre criticate molto. È stato bello, una volta su un'intervista ha detto addirittura che lui non guardava il colore, addirittura ha detto: ho votato un democristiano in Sardegna perché era un mio amico ed era una persona onesta. Lui guardava l'onestà, lui vedeva Gesù Cristo come un onesto, lo vedeva appunto in questa maniera, e secondo me l'ha apprezzato soprattutto per quello, perché in quegli anni predicare l'amore era cosa, chi lo faceva, era un E poi Gabriello aveva un'arma fondamentale, lo scritto, la musica. Mediante lo scritto e la musica lui abbatteva tutti i poteri, e questo era fondamentale. E arriviamo alle Tre Madri. Un altro pezzo di grande fascino. Gliel'ha scritta, cioè gli ha scritto alla madre di Tito, alla madre di Dimaco e alla madre di Gesù. Esatto. Gli ha dedicato questa, come dire, poesia. Sì, tipo, di grande poesia, di alta poesia. Ascoltiamo e poi magari ne parliamo. Sì. Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco, ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tuo farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non risorgerà più dalla morte. Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto. Ogni sua vita che vive ancora, che vedo spegnersi ora per ora. Figlio nel sangue, figlio nel cuore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso, cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre, come nel grembo e adesso in croce. Ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio. La chiusura io la trovo molto struggente. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora per figlio mio, dice. Sì, effettivamente è una cosa, una chiusura molto molto importante. Anche musicalmente mi pare che il violino lo suonasse un giovanissimo, come abbiamo citato all'inizio, Angelo Branduardi, sconosciutissimo all'epoca. E il violino, questa malinconia, un pezzo molto malinconico, molto triste, ma ad una tristezza incredibilmente bella, si può dire così. Sì, poi qua secondo me torna anche di nuovo l'umanità, no? Che certo, tra donne c'è sempre qualcosa da dire. E anche qui sulla morte una delle madri gli dice: con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine d'un'agonia. Sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tuo farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non risorgerà più dalla morte. Qui ritorna un lato umano che è attualissimo. Una donna che dice: tu non devi piangere, io devo piangere che figlio mio non ritornerà più, il mio morirà, il tuo no. Anche qui umanità, umanità al 100%. Poi un'altra cosa che ha sottolineato il critico: c'è una visione molto vicina al pianto della Madonna di Jacopone da Todi, quindi una visione del 200. Se avvicinato probabilmente lui ha studiato, come abbiamo già detto, ha studiato moltissimo e si è avvicinato a questa visione sacra da parte di Jacopone da Todi. E quindi anche quello c'è un parallelo, un collegamento. Sì, beh, sicuramente avrà studiato chissà quanto materiale. Uno studio incredibile. Roberto Danè diceva che hanno studiato un anno consecutivo, giorno e notte, notte e giorno, per arrivare a questo, per arrivare alla buona novella. Quindi cioè, una preparazione spaventosa, nel senso più bello del termine, anche se spaventoso non è un bel termine, però spaventosa nel senso di ricercare le cose più minime. Io mi ricordo che una volta Manuel e Roberto mi hanno fatto vedere una foto, così dopo l'ho rivista per carità, di Fabrizio che stava leggendo nel suo letto, immerso nei libri sparsi nel suo letto, voglio dire, questa cioè, aveva tantissimi immagine... appunti, aveva tantissimi appunti, scriveva in matita tantissime cose, poi le correggeva, le cancellava, le riprendeva, non era mai sicuro, nel senso, no, era mai, voleva la perfezione totale. Era Fabrizio De André e basta. Era un meraviglioso Fabrizio De André, per come è descritto ogni personaggio, ogni cosa, dalle madri nelle diverse situazioni, al potere che costringe i poveri a girare lo sguardo per piangere. Sono le considerazioni di Antonella che ci sta ascoltando e la salutiamo caramente, ovviamente. Grazie della partecipazione, Antonella. Allora, siamo alle 22.40 circa, ancora una ventina di minuti, e abbiamo la canzone forse... più conosciuta, più importante, più conosciuta, più non la più importante, ma la più conosciuta, la più conosciuta forse, è stata Dario, fatta e rifatta in tantissime versioni, magari se volete, se siete d'accordo, l'ascoltiamo prima nella versione degli specchi di un'avventura e poi se volete o della PFM o di De André. Cos'è? Ascoltiamo prima la nostra. Sì, sì, prima la vostra. Okay, sì, così certo. Avrete un'altra versione, un'ulteriore versione del testamento di Tito. Poi magari ne parliamo se volete o come volete voi. Cioè, l'unica cosa che, dimmi, Dario, che mi piace ricordare sempre ad ogni concerto, e cioè nel ritornare in quei periodi, cioè che i bambini venivano messi al lavoro già da giovanissima età, che venivano picchiati normalmente. Purtroppo succede ancora adesso, sì, in qualche paese, sì. Soprattutto in adesso, Africa e nei, una volta in era una normalità che un bambino a 4-5 anni aiutasse il padre a lavorare parecchio, che si morisse di fame, che venissero appunto picchiati magari per un boccone di pane, e che la situazione non era così facile o semplice come lo era adesso. E qui racconta dei 10 comandamenti, ma poi alla fine c'è quel famoso comandamento che comandamento non è, che ama il prossimo tuo come te stesso, che alla fine di questo brano lo fa esaltare proprio così. E secondo me questo brano è stato, non so, un capolavoro per dir poco. E l'ascoltiamo. Dio all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevano che in fondo era uguale. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora al padre, onora alla madre, e onora anche il loro bastone.

scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere questo uomo che muore, madre, io provo dolore nella pietà che non cede al rancore. Madre, ho imparato l'amore. Uno dei due ladroni dice: io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Ecco il famoso comandamento, che comandamento non è, ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè, davvero, a volte non ho parole. Anch'io. Ti fermi, perché più di lui, secondo me, non più, certo, di così non si può dire. Certo che Fabrizio ha voluto vedere questi 10 comandamenti dal punto di vista di un ladrone. Di ladrone buono, però. Di un ladrone buono, sì. Pentito buono. Più che buono, insomma. Sì. Beh, io ogni tanto, scusa Agostino se ti interrompo, però a volte ci ho pensato, essere lì, crocifisso, per aver rubato ai ricchi, tra virgolette, adesso non era un Robin Hood per dare ai poveri, però comunque qualcuno che aveva già tanto, lui moriva di fame, un po' ti fa arrabbiare, secondo me, anche perché la crocifissione era uno degli atti, forse la morte più truce, più atroce che sia mai esistita, o si moriva di soffocamento, di infarto, cioè voglio dire, era un dolore incredibile. E io penso che se ognuno di noi si fermasse un attimo e si pensasse lì, oddio, quando poi dice, aspetta che ti dico subito, c'è una parte che dice: non dire falsa testimonianza e aiutali ad uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Cosa vuoi dire più? Cosa puoi dire a un uomo che è crocifisso sulla croce, sta morendo, e poi ti dice queste cose qua? Puoi lasciare un minuto di silenzio? Sì, esatto. Ma noi è tutta questa sera che restiamo un po' in silenzio, perché dinanzi a queste poesie, insomma, è difficile restare, come dicevo prima, difficile restare inermi, insomma, nel senso che la cosa talmente ti entra dentro, queste parole sono molto forti, ma molto belle, c'è niente da fare. Dobbiamo dire una cosa, che Fabrizio non era soddisfatto dell'andamento musicale del pezzo, era un po' incerto. Allora ha chiesto aiuto a Michele, vi ricordate Susa di Marinaio? Michele è un cantante degli anni 60, da molti anni amico di Fabrizio, e Fabrizio... Michele ha portato a Fabrizio De André un altro musicista, si chiama ancora Corrado Castellari, che ha dato una mano considerevole alla formazione musicale del pezzo, che non è un pezzo difficile, i musicisti me lo possono dire, è un pezzo abbastanza semplice. È difficile nel contesto del punto di vista delle parole, inserire un pezzo abbastanza semplice con delle parole così importanti. Quello era la difficoltà, secondo me, di Fabrizio De André. Anche perché il brano è lungo. Il brano è lungo, direi, sugli 8-9 minuti, quindi sì. Un pezzo molto lungo. Poi far dire i 10 comandamenti dal ladrone buono è già un'idea incredibile. Che era più semplice farla dal ladrone cattivo. Esattamente, era più semplice farla dal ladrone cattivo. Lui ha scelto il ladrone buono. Quello che difende Gesù. Quello che difende Gesù. Anche qui si vede il rispetto e l'intelligenza di Fabrizio nel scegliere il personaggio e fargli dire quelle cose che alla fine sono veritiere, nel senso che non ha detto bugie, no, cioè, questo sarà stato anche un ladro ma non sarà stato un bugiardo, e, visto come lo vedeva Fabrizio, secondo me forse anche un po' il modo di vedere di Fabrizio ha voluto nascondersi dietro il ladrone, certo, per dire naturalmente ha voluto dare un segno anche in questo caso. Sì, questo forse è un segno più... Qui si vede forse il De André più critico, più anarchico, più... Sì, fuori da tutti i legami. Sì, esatto. Sempre contro il potere. Sì, sì. Quello è un segno contro il potere. Musicalmente, stasera abbiamo fatto con due chitarre. Come

tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Abbiamo finito in dolcezza con questa, diciamo, ripetizione di una canzone strafamosa, insomma, forse la più famosa di questo disco. Non è la più bella, ma è una che è stata portata a successo, forse più richiesta dagli ascoltatori, dai fans di Fabrizio De André. Questa sera un po' tutti noi siamo stati fans, abbiamo celebrato questa opera, questa buona novella, con gli specchi di un'avventura che ci sono venuti a proporre le loro versioni di questa canzone, di questi canzoni, meglio dire. E l'abbiamo fatto, spero, in maniera bella, piacevole, anche per chi era a casa, insomma, stesse ascoltando. Cosa ne pensate voi? Specchi dell'avventura, sì. Cosa ne pensate? No, è stata una grande esperienza venire qui. Poi la vostra compagnia, io non sono ormai... Beh, oddio, mi definite una vecchia conoscenza, ma mi sì, trovo... Abbiamo definito una vecchia conoscenza. Sì, a me fa molto piacere perché comunque qui si sta come a casa. E per noi è stato bello poter portare Fabrizio. Per noi è sempre bello nei concerti, ma poter venire qui in radio a parlare di lui in un periodo di Pasqua, che comunque è un momento molto importante, che quest'anno poi secondo me si festeggerà anche con questo Papa, che è un altro, secondo me, rivoluzionario. Sì, esattamente. Dal nome Francesco, quindi Francesco d'Assisi. Quindi. Davvero, mi piace molto, e sto vedendo a molte persone che erano un po' meno vicine alla Chiesa, che ci stanno, non dico avvicinando, però questo Papa piace molto. È un insieme di cose, un insieme di coincidenze che direi quasi perfette. Dovevi dire qualcosa prima? Sì, volevo dire qualcosa, che innanzitutto venite a trovarci... Su Facebook ci trovate, io sono Dario Petucco, Emanuele Mucellin, ci trovate su Facebook, Roberto no, però trovate anche lo spazio degli specchi di un'avventura, ci trovate così, e vi aspettiamo sabato 6 aprile, cioè sabato prossimo se non sbaglio, al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere per un concerto... Io dico meraviglioso, lo facciamo noi, non possiamo dire altro. Certo. No, ci stiamo preparando, abbiamo dei brani nuovi e troverete anche questi brani della buona novella, e vi aspettiamo davvero numerosi. Bene, allora l'opera termina con una... 30 secondi. No, dura di più, dura 3 minuti. Ah, 3 minuti, è quello, è l'inizio che durava 30 secondi. Sì. È un canto liturgico, sì, che incita, diciamo, ad amare, ad apprezzare, a lodare l'uomo, e non in quanto figlio di un Dio, ma in quanto figlio di un altro uomo, quindi un fratello. E con questo augurio che termina la buona novella, termina anche questa trasmissione, ma prima di chiudere, di cuore vi auguriamo, io e Maurizio, una buonissima Pasqua a voi tutti, all'ascolto, ascoltatori, a voi e ai vostri familiari, che sia una Pasqua serena, di felicità e piena di buona musica, anche perché no, magari con Fabrizio D'André. Un grazie allora lo dobbiamo dare a questi musicisti che ci sono venuti a trovare, e cioè a Dario Petucco alla voce, alla chitarra, una delle due chitarre, Roberto Boscardina, l'altra invece Emanuele Mocenin. Grazie ragazzi, anche a voi. Ciao, grazie. Grazie a voi. Grazie. Speriamo di rivedervi ancora presto. Maurizio, una buonissima Pasqua anche a te. Anche a te e ai nostri ascoltatori, chiaramente. E salutiamo tutti con Laudate Hominem per voi, da Blu Radio Veneto, Fabrizio De André. Ciao. Ciao. Ciao.